Ci presentiamo uno alla volta. Esatto, io sono Andrea, il bassista, piacere, buonasera a tutti. Ok, poi? Sono Francesco e suono l'organo e le tastiere. Benissimo. Buonasera. Alessandro e canto e suono la chitarra. Benissimo. Ciao, sono Leonardo e suono la batteria. Benissimo, l'altro componente ci sarà domani a Conegliano dove suonerete, però sì, lo salutiamo via internet e ci sente. Ok, allora, la storia, un pochettino di storia della band. Oh, la band si è formata circa nel 2003, eravamo tutti ancora abbastanza giovani e minorenni. E diciamo oggi che... siete appena appena maggiorenni, adesso siete giovanissimi in ogni caso. Esatto. E, diciamo che la cosa si è formata parecchio fra i banchi di scuola e con il comune, diciamo, di degli ascolti musicali che avevamo, più o meno ci piacevano le stesse cose e quindi da lì è venuta voglia di formare una band che nel tempo ha avuto sviluppi, cambi di line-up, fino ad arrivare alla realtà che oggi è, diciamo, il punto un po' più stabile della band. Il nostro primo demo l'abbiamo fatto circa più o meno nel 2003-2004. E Black era composto di quanti pezzi il demo? Era composto di 5 pezzi. 5 pezzi. Sì. Musicalmente come si formava il demo? Sugli input di adesso è un pochettino diverso? Era un po' più, diciamo, un po' più grezzo ovviamente, perché tutti suonavamo anche i singoli strumenti da non troppo, quindi diciamo che eravamo proprio alla base di tutto, non avevamo tutta l'attività live poi che abbiamo avuto nel corso degli anni. Quindi tanta attività live, dobbiamo sottolineare questo, avete suonato dappertutto, non solo in Italia, anche all'estero. Esatto, abbiamo suonato ultimamente anche all'estero per promuovere il primo EP che è uscito con Black Candy Records nel 2009, che si chiama Conversationless. Siamo andati a suonare in Inghilterra, in Germania, Austria, diciamo ci siamo girati un po' l'Europa col furgone, ecco. Bello, e com'è stato l'approccio con la musica, cioè con gli spettatori d'oltremanica, eccetera? È stato ottimo, del resto tutte le cose che ci piacciono vengono dall'Inghilterra. Esattamente, quindi... volevo arrivare a questo, perché cioè, il vostro nome ha un dentellato con Manchester, si può dire? Sì, esatto, era un vecchio club di Manchester che andava intorno alla fine degli anni Ottanta, poi diciamo che in Italia è famoso per quello solo fra gli ascoltatori magari di musica un po' più indipendente, quindi il fatto che non suoni britannico, se si chiamava magari Morning, il locale era proprio totalmente britannico, per chi non lo sa sembra una cosa spagnola. Magari. Esatto, esattamente, anche la pronuncia un pochettino spagnola. Sì. Marco, che ha sentito il disco prima come me, chiaramente, ha subito identificato il vostro sound, vero Marco? Sì, il primo ascolto però non vorrei sbilanciarmi. Ma adesso lo puoi sparare lo stesso, vediamo cosa dicono. Il primo pezzo del CD che ho ascoltato mi ha fatto venire in mente gruppi come i Kaiser Chiefs, come gli ultimi gruppi, quelli degli ultimi 5-6 anni, quel suono là, il nuovo Brit lo chiamo io, no? che ha ripreso un po' la New Wave, quella che a me piaceva tanto degli XTC degli anni 80, fine anni 70, no? Però sì, il riferimento mi pareva quello. Sì, più o meno ci siamo dentro. Poi io penso che anche, essendo anche noi, diciamo, dentro la decade più o meno, anche se gli ascolti possano essere abbastanza più dentro, quindi non direttamente solo quelle cose là, era come magari, non lo so, negli anni 60 magari c'erano 10 gruppi che suonavano molto simili, ma se gli dicevi magari la cosa direttamente ti dicevano alcuni erano più vicini al rock and roll, alcuni più al soul, alcuni più al rhythm and blues, quindi diciamo che anche l'epoca ti accosta a delle band vicine anche se non le ascolti direttamente. Per esempio anche Kaiser Chiefs ci piacciono tantissimo, però non è che sono state una fonte di ispirazione diretta per lo sviluppo della band, del sound, della scrittura dei pezzi. Forse magari il fatto che siamo più o meno della solita epoca, ecco. Sì, esattamente, si può avvicinare così. Ok Marco, cosa dici? Apriamo subito la finestra come nostra abitudine. Loro hanno scelto il primo pezzo dalla scaletta, che è la traccia numero? La traccia numero 3 si chiama Nova, il pezzo. Esattamente, lo sentiamo, quindi poi ne parliamo, ne discutiamo assieme, ok? Ok. 880 internet. Cioè, meglio che sì, parliamo cioè, un po'. No, cioè è partito lo spot, quindi diciamo, aspettiamo che finisca lo spot. Dimmi tu. Sì, no, parliamo un momento, presentiamo prima il pezzo. Sì, Nova è il, diciamo, primo singolo estratto dall'album King Pennies of the Floor, che in cui è presente anche una partecipazione di un nostro amico, un cantautore di Manchester che si chiama Danny Meon, che canta ecco, in alcune strofe, ed è il pezzo per cui gireremo anche un video. Come mai avete scelto quello come singolo? È stata non un'imposizione, un consiglio da casa discografica oppure una vostra scelta? Ma è stata più o meno la nostra scelta. Comunque con Black Candy il rapporto è abbastanza familiare, quindi non ci impongono delle scelte artistiche o cosa. Però era forse il pezzo che racchiudeva un po' tutto lo sviluppo che c'è sonoro dentro l'album, dai fiati alle chitarre acustiche, partecipazioni, cori. Era quello, diciamo, un po' più... cioè che dava lo spettro di tutto quanto. Esatto, sì. Ok, lo sentiamo adesso allora. Un attimo di pazienza, una domanda volevo fare veloce, me la volevo farla dopo, ma la faccio adesso. C'è qualche riferimento al Manchester Sound, quello degli anni 80, Charlatans, Inspiral Carpets, oppure... sì. Oppure... In generale, se avete ispirati anche a quella che è la seconda ondata di Manchester, no? Quella prima di altri gruppi, ma so che c'era il periodo, era primi anni 80, no? Esatto, sì, forse piuttosto che la scena dell'ultima decade, le cose che ci hanno un po' più influenzato proprio a livello di formazione di tutta la band sono state quelle cose lì, magari della New Wave di Manchester. Quindi anche Stone Roses, anche gli Happy Mondays facevano parte di quell'epoca, no? Sì. Più o meno più quelle cose là, ecco. Ah, ok, perfetto. Allora possiamo partire col pezzo, quindi Nova, ce lo ascoltiamo. Rock Wave, l'onda del rock. Don't say ah, because you have to. Don't say, I warn you. I think you're fine, it's just too late to find a way to go away. Ok, ci siamo? Sì? Perfetto, e questo è un pezzo piuttosto complesso, io guardo Leonardo che è qui davanti. Eccoci. E dunque, mi spiegavi a microfono spento la complessità di stare dietro a un sacco di velocità. Sei partito a una velocità, poi ti sei fermato, poi hai ripreso la velocità, Fonico era molto soddisfatto delle tue velocità probabilmente. No, la complessità maggiore è stata, penso per tutti quanti, nella registrazione di questo pezzo, è stata nella creazione della base di metronomo su cui suonarci sopra, che era che molto complicata, era molto complesso, ci sono 5 o 6 cambi di velocità differenti, una scalettina a rallentare, quindi registrarci sopra senza punti di riferimento, insomma con i cambi improvvisi è stato un po' alienante, una tragedia, sì, è stata un po' una tragedia. sì. Però ci siete riusciti, il pezzo è notevole, cioè giustamente avete scelto come singolo per un pezzo di impatto, non poco. Sì, no, infatti no, ma come diceva anche prima Alessandro, nel senso è il pezzo che magari racchiude più tutto il disco, cioè dà magari un'idea, un riassunto di quello che può essere. Te le facci, non le più rinnova praticamente, o quasi. Sì. Esattamente. Cosa dici, Marco? Che a me questo pezzo ricordava molto un brano dei Fratellis del primo album, come cambio di ritmo. Il singolo dei Fratellis dal primo album, che secondo me è un pezzo, ma loro l'hanno fatto, direi che siamo a quei livelli molto, ma molto buoni, direi. Decisamente un pezzo notevole. Grazie. Anche l'essere complicato a farlo non è stato semplice. Stasera siete in quattro, il quinto che arriverà domani a Conegliano, però anche lui ha partecipato chiaramente. Cinque idee per un pezzo, e il Fonico cosa ha detto? No, ecco, infatti qui bisogna menzionare il Fonico, che fondamentalmente è quello e probabilmente ha smattato, ha perso la testa più di tutti noi messi insieme, ecco. È lui che ha programmato il metronomo e ci ha dato un po' le direttive operative. Di come citiamo, sono due, sono Lorenzo Buzzigoli, che è ci ha aiutato anche a produrre il disco, esatto, nonché un socio dell'etichetta, e Tommaso Bianchi, che ringraziamo, e veramente scusaci Tommy per tutto questo. Però è stato positivo in ogni caso. Sì. Ma l'idea era già in partenza così. Sì, esatto. Sì, diciamo che siamo abbastanza complicati negli arrangiamenti dei pezzi, poi a renderli effettivi in quel modo in studio, quando devi fare tutto a puntino, diventa tutto un bel casino, insomma. Coordinarsi non è facile, comunque è da tanto che suoniamo insieme, quindi anche intesa, no, per questi casi qui c'è, nel senso riusciamo magari più a intenderci visivamente, ecco, quando magari si tratta di essere da solo in studio a registrare col metronomo e basta, ma riferimento, le difficoltà vengono un po' fuori, ecco, non puoi fare affidamento sui compagni. Ma più di 100 concerti vuol dire dal vivo, quindi forse è che siamo stati più formati come una band live piuttosto che da studio, però ecco, registrare un disco intero chiusi un paio di mesi in studio, ecco, di sicuro ci ha fatto maturare sotto quell'aspetto lì, ecco, di capire alcune cose di produzione, come scegliere dei suoni in base a cosa vuoi far venire fuori piuttosto da quello che senti in regia. È stata una cosa molto utile, ecco, chiudersi 2 mesi e stoppare l'attività live proprio per tutta la durata. Ecco. Che comunque in questi ultimi anni ci sono state alcune band che hanno suonato tantissimo live, e dopo aver suonato, quindi c'era la gente che lo conosceva per il live, e poi hanno fatto un disco. A me vengono in mente anche gli Arctic Monkeys, che hanno lanciato anche il singolo proprio in una versione live. Quindi, che è il contrario, perché una volta invece c'era dicevano che gli inglesi rispetto agli americani suonavano meno live e facevano più in studio, no? Invece ultimamente anche le band inglesi suonano molto live, e dopo tanti anni, o dopo tanti, si presentano con un disco, quindi è una cosa, probabilmente vi rende anche meglio poi il suono, perché l'esperienza live poi sicuramente aiuta anche a registrare meglio il disco, presumo, no? Sì, assolutamente. Nel nostro caso poi è stato una cosa, iniziando a suonare parecchio giovani, suonare fuori, farti conoscere e tutto, è una cosa che viene molto più, magari se avessimo fatto un disco magari nel 2005-2006, quando già comunque stavamo già un po' suonicchiando live, avevamo fatto dei concorsi anche nazionali. Che avete vinto tanti, tra parentesi, concorsi. Sì, abbiamo vinto tanto. Volevo fare un riferimento calcistico, ma non, meglio di no. Colori. Però, i colori, solo i colori, i suoi non sono quelli reali della band, non sono uniformi nella band, basta, diciamo. Non dire il nero, basta che dici un colore, o è una striscia delle due blu. Vabbè. Siamo perduti. Non è Atalanta. Non è neanche Pisa, ma è peggio che Pisa. Già mai. Okay. No, nel senso, dicevo comunque sia che magari adesso le band suonano tanto anche di più rispetto al lavoro in studio, forse perché magari c'è un po' più di crisi nel vendere i dischi, e quindi anche se la guardi sotto un aspetto economico, ecco, diciamo che a livello professionale sono un po', diciamo, sia in funzione della promozione stessa del disco a suonare tanto, piuttosto anche che camparci. Ma non c'è il rischio che provare tanto un pezzo dal vivo, poi arrivare in studio e c'è il rischio di cambiarlo poi? Sì, forse si perde un po' di spontaneità suonandolo tanto prima di... però ecco, diciamo che noi nello scrivere siamo abbastanza spontanei sotto quell'aspetto, non abbiamo mai tenuto, diciamo, in... gli arrangiamenti del pezzo, che ne so, in studio per un mese, magari, ecco, sì, in fase di produzione cambi delle cose, aggiungi, togli, però la spontaneità del pezzo è quella di come l'hai scritto. Infatti tante idee nascevano solo con la chitarra acustica e poi veniva dato il sound della band in studio, però non siamo mai stati, diciamo, a scrivere un pezzo per due mesi. Ho capito. A proposito di che... dimmi. Può dare un nuovo aspetto del pezzo, no? Magari tu l'hai sentito dal vivo tante volte. Sì. E ti sei abituato a un arrangiamento con i fiati che magari in video non abbiamo, poteva risultare una novità. Ah, ho capito. Ho capito. Nell'intero, insomma, l'intero disco, secondo me, può dare. Benissimo, Marco, a proposito dal vivo, cosa vuoi? Facciamo un pezzo live direttamente? Beh, direi di sì, visto che è un live, appunto, magari facciamo, no? Un pezzo live. Sono le 22:46, quindi assolutamente dal vivo e assolutamente in diretta, chiaramente. Adesso stiamo provando, gli strumenti. Sì, suoniamo un pezzo del, appunto, del nuovo disco, che si chiama 5-9. Keep you off from the money you stole from air. Keep you off from the place you've never been. Keep you off from the town. You were always trapped to follow her. It's October, stay away from her. October, stay away from there. October, stay away from there. Keep you off from the mouth you stole from her. Keep you off from the face you've never seen. Keep you off from the town. You were always right to follow her. It's October, stay away from her. October, stay away from her. October, stay away from there. I spend my days with you feeling strange, and you're still getting out to be funny. Go through that conclusion, you've got no results, and you remember that summer. I still don't care. I still don't care. I still don't care about you. About you. Give yourself a chance to prove you not like that. What would you like to do? I walk out, me and you, just for a couple of hours, and now you have to wake up early in the morning for a job that you don't like. You stand up awake every morning for a job that you dislike. You still wake up every morning. I still don't care. I still don't care. I spend my days with you feeling strange, and you're still getting out to be phony. Go through that conclusion, you've got no results, and you remember that summer. I still don't care. I still don't care. I still don't care. Keep you off from the mouth you stole from air. Keep you off from the mouth you stole from air. Keep keep off from the mouth you stole from air. Keep you off from the mouth you stole from air. Keep you off from the mouth you stole from air. Keep you off from the town. It's October, stay away from air. October, stay away from air. Posso dire una cosa, Marco? Quasi californiano questo pezzo del finale, molto west coastiano. Non so se sei d'accordo su questo. Non tanto. Non però. Tante, ma è giusto che sia così. Beh, in ogni caso, decisamente diverso da come abbiamo sentito il disco, chiaramente. Sì, forse il disco, avendo alcune diverse atmosfere, con alcune cose un po' più soul, con i fiati, alcune con le chitarre acustiche, diciamo che vive un periodo di transizione dall'EP con i pezzi un po' più punk, un po' più veloci, e con i pezzi un po' più acustici, tipo questo qua, magari apre verso il futuro, che potrebbe essere una chiave molto più ricorrente, ecco, la fase, cioè, meno cattiva, più non dico melodica, ma più sì, ancorata verso le chitarre acustiche, o no? Sì, forse sì, ma magari, ecco, non è che ci stiamo precludendo qualsiasi via per il nuovo album che magari faremo fra un po', però ecco, forse sono, diciamo, i pezzi con la chitarra acustica sono le cose un po' più recenti della band. Perché all'inizio la chitarra acustica era quasi bandita, o no? No. Forse sì, nell'EP non ce n'era. Non c'era traccia. Proprio, assolutamente. Sì, nonostante venissero scritti con la chitarra acustica, non avevamo registrato niente alla fine. Perché poi era cambiata subito con la chitarra elettrica, un po' lisergica, un po' violenta nel senso positivo del termine, sì, chiaramente. Sì. Però c'è una trasformazione, Marco, lo so che non sei d'accordo, ma insomma... Ma diciamo che la fase acustica più o meno colpisce tutti dopo una certa età, no? Sembrano ancora giovani, quindi mi aspetto che vadano avanti ancora almeno, senza nulla togliere all'acustico, per carità, certo, ci mancherebbe altro. Benissimo, ribadiamo il titolo dell'album, che abbiamo detto solo una volta velocemente. Si chiama Picking Pennies Off the Floor. E Black End è un'etichetta di Firenze, mi pare proprio toscana al 100%. Sì, è un'etichetta indipendente di Firenze che attiva già da tanti anni, ha fatto diverse produzioni sia locali, cose in italiano, cose abbastanza differenti anche. E adesso sono usciti recentemente anche il disco dei Thumb Violence, che sono una band di Arezzo, fanno una cosa un po' più diversa rispetto a quello che facciamo noi, e in uscita ci sono anche tante altre cose, quindi diciamo l'etichetta è viva e attiva sul fronte di discografico. C'è un'etichetta che si occupa dell'indie italiano e non soltanto dell'indie italiano. Cioè, una volta me la ricordo a Black Candy, ti ricordi l'etichetta, un'etichetta famosa indie? Black Candy aveva fatto delle cose molto interessanti prima ancora della vostra partecipazione, chiaramente. Sì, ok, sì, e lo sono giovani, Marco, sono mica no, appunto, sono tanto giovani. Noi possiamo dire, noi siamo di una certa età. Beh, io sì, un po' più te di me, però dai, vabbè. Sì, vabbè. C'è anche Alberto che si è nascosto adesso, però. Diciamo che l'età mia è più vicina all'età del punk, perché io ho cominciato ad ascoltare il rock negli anni metà anni 70. Forse la tua è un po' più un po' prima. Beach Boys, un po' più sì. Però loro hanno citato, cioè su una recensione sono stati citati i Kinks. Beh, Kinks è un bel gruppo tosto. No, ma senza nulla togliere alle band degli anni 60, che secondo me hanno dato là a tutti i gruppi che poi sono venuti negli anni 70, anche perché tanti gruppi punk, proprio ieri ascoltavo il pezzo dei Kinks, cos'è? Hello, quello rifatto dagli Stranglers, quindi alla fine comunque un tributo a quelle band è stato dato anche dai gruppi punk o new wave degli anni 70. Certo che loro, con l'età loro, effettivamente io mi stupisco sempre che ci siano ragazzi adesso, fortunatamente, che si rifanno comunque a quella musica e alla musica degli anni 70, anni 80, perché meno male che c'è ancora chi continua quella tradizione, meno male. Quello sta poi magari di come uno vive la musica anche suonando, no? Se magari appena inizia a suonare ascolti delle cose abbastanza mirate, poi ovviamente se sei interessato a tutto l'aspetto che c'è dietro, intorno, alle radici arrivi, cioè dal Britpop, che era stata la cosa che ci aveva attirato, diciamo, nel mondo della musica, arrivi agli anni 60, alla psichedelia, al soul, al funk, un po' a tutto, ecco. C'è anche il percorso vostro un po' più lungo, perché adesso per risalire la china ci sono 50 anni, 60 anni di musica rock, è difficile riuscire a andare a beccare. Sì, pian pianino. Mentre per noi magari era un po' più facile, perché c'erano meno anni da andare a scoprire, no? Esattamente. Ma nel caso tuo, Maurizio, sei nato col rock, quindi non è un problema. Esattamente. Sì, esattamente. Sono nato all'inizio. Sì, la mia data di nascita è dall'esplosione di Elvis, praticamente. Siamo là. Ci siamo. Vabbè, non la citiamo. Beh, anche se sono mica una donna, si può anche citare il 54. Sì, Elvis era proprio all'inizio della grande esplosione sua, praticamente. Ok, dunque, cosa sono? Sono 22:55. Marco, facciamo sentire un altro pezzo da disco. Cosa dici? Da disco o live? Oh, come vogliono loro. No, no, beh, io proporrei di far sentire un altro pezzo da disco, poi facciamo una sequela di live dopo, cosa dici? Va bene, capo. No, no, sei te il protagonista del programma, io sono solo un tuo ospite. No, no, vabbè, ok. Allora ascoltiamo, qua vedo nella scaletta Last Bus on the Way, l'ascoltiamo, okay, sempre dal loro album. Certo. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. A new star before there will be a new season. As December does to our lives, no time, no good time at all. After 4 a.m, no light, no clubs, and no spaces. We could buy some tears or try to bet sometimes. Ci andava di brutto, hai sentito Marco Leonardo in questo pezzo, soprattutto nel finale, via la grande, mi pare giusto. Il fonico è stato soddisfatto sempre, allora sì, sì, sì, non c'erano problemi. Non ci sono stati problemi, mi andava tutto liscio. Tutto a posto, sì, tutto sì, liscio. Sì. Ma c'è stata difficoltà, al di là dello scherzo, stavamo scherzando per quanto riguarda quel pezzo complesso, nella registrazione del disco, gli intenti erano già perfetti, siete andati via lisci praticamente, avete avuto delle difficoltà oppure no? Diciamo il più delle cose sono abbastanza migliorate entrando in studio, ecco, non c'è stato delle cose magari pensavamo in un modo e sono uscite in un altro, quindi è stato, l'esperienza è stata positiva senz'altro, perché comunque sì, erano pezzi che suonavamo già dal vivo da un bel po' di tempo, quindi non hai più l'orecchio esterno di chi può sentire magari un arrangiamento in più o qualcosa da togliere magari, quindi è stato sicuramente positivo, ecco. È stata buona la prima, o quasi, insomma. Sì, diremmo, sì. Ha lavorato più sui suoni che sull'esecuzione. Ah, ho capito, era, quindi era già tutto predisposto, eravate sulla buona strada praticamente. Sì, sì, sì. E poi comunque, al di là di tutto, siamo, cioè, il che ha permesso secondo me di lavorare bene è stata l'atmosfera che si è creata, e comunque, come dice il titolo dell'album, Picking Pennies of the Floor, diciamo che questo progetto è un progetto che ovviamente, come appunto si chiacchieravamo prima, microfoni spenti, che nell'ambiente musicale indipendente italiano in primis che cosa ti manda avanti è la passione, voi a mandare avanti una radio, noi a mandare avanti un progetto, l'etichetta a mandare avanti l'etichetta, e quindi insomma si tratta un attimo di fare produzioni low budget, fare il più possibile in casa. Infatti il disco è stato registrato al Folsom Prison, che è appunto lo studio di Lorenzo Buzzigoli dell'etichetta. Abbiamo fatto una cosa in casa, quindi c'è stata un'atmosfera rilassata, senza pressione, senza fretta, e si è lavorato bene. Spero che piaccia anche agli altri, ecco, sei un po' autoreferenziale, detto così. A noi, è piaciuto, quindi noi facciamo una piccola parte degli ascoltatori, però chiaramente chi vi sta ascoltando adesso farà il suo giudizio, però a noi è piaciuto, quindi... Comunque riguardo al discorso delle canzoni, cioè le cose che sono venute in più sono stati comunque sia delle piacevoli sorprese, nel senso i pezzi avevano una loro struttura, suonavano già da tempo, mi ha detto Alessandro. Poi magari sono stati messi dei fiati che all'inizio erano stati pensati solamente in un pezzo, sono stati messi in altri pezzi e hanno svoltato il suono di alcune canzoni che proprio non pensavamo di riuscire a proporre in questa maniera, insomma, è stato una piacevole sorpresa. I fiati, perché c'è un amore soul che serpeggia fra di voi, oppure no? Sì, abbastanza, nel senso... Tornando al discorso di prima, che quando parti magari che sei un po' più giovane e ascolti delle cose meno mirate, poi arrivi alla radice e poi scopri che ci sono delle cose che ti piacciono più di quelle che ti hanno fatto scoprire quella cosa là, ecco, il soul è una di queste, in particolare le soul anni 60, certo. Le cose nord del soul, la Motown, Stax, quelle cose là che ha contribuito molto, diciamo, nella playlist della band negli ultimi mesi, ecco. Anche l'ultimo anno, quindi, però avendo un'attitudine un po' più punk, più indie rock nella scrittura dei pezzi, ovviamente non è che potevi insinuarla in qualsiasi cosa che avevi fatto, quindi anche quello è stato ben scelto, i pezzi in cui è stato motivato, insomma, sì. Praticamente, esattamente. Ok, suoniamo, cosa dici? Ok, questo è un pezzo del primo EP che si chiama Small Town Boyfriend. Valentine, oh my Valentine, what I will face outside today, what I will face this side today. Find a paper, see you later, folded in the water, it comes last week, oh yesterday. Got a plan, no time for many days so far away, without a club, inside a car, upon a place you wouldn't stay. There's something inside us, you know where you need it. Touch what I'm feeling, but I don't want. There's something inside us, you know where you need it. Touch what I'm feeling, but I don't want. Going better on it, going better on it, going better on it, yeah. Friday shirt, now wear so tight, 'cause looking straight, you see it's Sunday night. so you sing a song that you know. Just something inside us, you know where you need it. I'm touching what I'm feeling, but I don't want. Just something inside us, you know where you need it. But I'm touching what I'm feeling, but I don't want. Going better on it, going better on it, going better on it, yeah. Going better on it, going better on it, going better on it, yeah. There's something inside us, you know where you need it. Touch what I'm feeling, but I don't want. Going better on it, going better on it, going better on it, yeah. Going better on it, going better on it, going better on it, yeah. Gli Ascenda Rockaway con Marco Borgato e Maurizio Cazzavara, complimenti. Questo era un pezzo delle EP che era abbastanza duro, l'avete trasformato in un pezzo decisamente, non dico una ballada, ma molto acustico. Sì, probabilmente è stato tutto trascinato dal mood attuale del nuovo disco, del nuovo disco. Più vecchie, anche se in realtà non è che abbiamo cambiato, stravolto i pezzi dell'EP per renderli più omogenei a quelli dell'album, però magari in una situazione acustica si può un po' più avvicinare al sound attuale. Certo, dal vivo, quando siete la formazione totale, quando suonerete, è elettrico, totalmente elettrico, o c'è questa porzione di acustico anche dal vivo? Sì, esatto, non completamente come adesso, però io suono la chitarra acustica in alcuni pezzi, come c'è sul disco del resto. Certo, certo, quindi c'è la possibilità di fare anche quella dimensione, insomma. Sì, come già c'è nel nuovo album, abbiamo comunque puntato sul creare delle differenti atmosfere usando la chitarra acustica, i fiati o alcuni pezzi un po' più duri, e cerchiamo di riproporla anche dal vivo, la solita cosa. Cioè, determinate facce della stessa medaglia, chiaramente, una medaglia acustica, una medaglia elettrica, una medaglia ancorata al solo, o presunto tale, un po' nascosto, come tu hai detto in precedenza, perché la difficoltà da mettere il sole proprio in piazza doveva essere un po' nascosto, insomma, praticamente. Sì, probabilmente anche perché le cose non è che si incastrassero perfettamente, quindi ecco. Ad esempio, il pezzo che abbiamo passato, Last Bus on the Way, era uno di quelli in cui poteva esserci un beat che, ovviamente con le chitarre e tutto, però anche a livello di melodia potesse essere un po' più una cosa che si avvicinava al Northern Soul, quindi lì ci siamo sentiti di mettere i fiati in quel pezzo là, cosa che però adesso al momento non facciamo dal vivo, perché sarebbe un po' problematico a livello proprio logistico di girare in 12, perché comunque abbiamo utilizzato una sezione di fiati nel disco, nel disco. Sono stati suonati da alcuni ragazzi che menzioniamo, tra certo. Cui, possiamo menzionarli, Riccardo, sì. Gini della Fantomatic Band e altri ragazzi che aveva portato lui, che ha partecipato hanno partecipato chiaramente. Ok, cosa dici? 23.08 in scaletta? Sì, potremmo fare quella solita domandina che facciamo di solito. Che fai tu di solito, no? Che io faccio io di solito, ma una cosa veloce, sono in quattro allora. Sì, la domanda è molto semplice. I dischi che porterete su un'isola deserta? Voi. Quanti ne possiamo dire? Facciamo solo tre, perché una si può rispondere. No, c'è una regola ferrea che è questa. La ferra, la regola, non si può copiare. Si può fare uno a uno, ma non si può copiare. Esattamente. Non vale portarsi l'iPod, ovviamente. No, non vale portarsi l'iPod. Sarebbe più semplice. E il numero dei dischi? Quanto facciamo? Tu facevi 5, però dopo hai detto 3 per evitare di allungare i tempi. Facciamo 3 a testa, dai. Però dai, allora, dagli la possibilità anche 5 se ce li hanno. Anche sì, 5. Ok, spariamo anche 5 se li avete. Allora, Village Green Preservation Society dei Kinks. Vedi caso, abbiamo citato i Kinks, questo è un capolavoro. Maybe degli Oasis, perché è stata la cosa che mi ha avvicinato alla musica. Poi Sound Affects dei Gem. Ah, anche Gem è citato, bene, interessante. Paul Weller, sì, che gira e rigira sempre. Un guru spirituale. Ah, 3 o 5? Ma anche 5 non è un problema. Se gli hai 5 subito vai tranquillo con 5. Ok, North Sud Ovest Est degli 883. Allora ci voleva fermarsi a 3 allora, no? Come mai 883 è una battuta o veramente così? No, era una battuta. No, il cantante interista è l'unica. Ah, perché... mamma mia, hai toccato un tasto dolente. Okay. Perché il nostro conduttore non è assolutamente interista. Però il direttore sì. È il direttore, sì, l'organo sono organizzatore, direttore artistico, per Alberto poco, è interista. Sì. Per poco ancora direttore, no? Sì. Non so, ti hai sentito. Lontano adesso. Dimmi, No, ti dico altri due dischi veri. Allora, Dust in Memphis di Dusty Springfield. Ah, bello, quello interessante. Come mai un ragazzo così giovane ha citato una musicista degli anni 60? Diciamo che è un po' la mania proprio per la musica che ha portato da arrivare dal, come dicevamo prima, dal Britpop alla cosa soul, quindi ascoltando tanti dischi e cercandosi comunque tutte le cose. Hai scovato questo artista, questo disco qua che è molto meraviglioso. Certo. E poi la compilation Gold della Motown uscita qualche anno fa. Ah, bene. Allora, io invece porterei primo disco The Queen Is Dead, Smiths. Poi Revolver dei Beatles, perché i Beatles sono degli evergreen e non si devono mancare, esatto. Poi porterei, saltando un po' sul moderno, e direi il primo disco dei Fleet Foxes, omonimo disco. Cosa dici, Marco? Io amo particolarmente i Fleet Foxes. Sì. Ma hanno fatto anche una versione. È uscito ora sto bramando, insomma, a riprenderlo. Poi diciamo che si potrebbe mettere The Gift, The Gem. Questo non me lo... Paul Weller sempre. Paul Weller sì, anzi, e Illumination anche di Paul Weller. Perfetto. Tutto è tutto suo. Vai, tocca a te. Io, perché non vorrei copiare. No, non si può copiare, è una regola ferrea. Allora, lui ha detto i Kinks. Sì, a me piace molto Lola vs The Power Man, che è quello dopo. Quindi porterei quello. Sì. Benissimo, sempre Kinks. Porterei banale, ma porterei London Calling The Clash. Perché banale? Perché banale? Può sembrare banale. Non possiamo dire che è banale, no? Suoni nei Clash e nemmeno sei di Londra. No. Ah, no, certamente. Porterei Magical Mystery Tour dei Beatles. Prendi ancora due, mi pare. Lo so, infatti stavo pensando. Screamer Erica dei Primal Scream. Ah, ci fermiamo un secondo, cosa dici, Marco? Un disco che fa parte della tua discografia? Sì. Assolutamente. Primal Scream è completamente completa. Esattamente. Si è aprita, a parte che poi appunto i Primal Scream sono nati dai Jesus and Mary in Chain. Certo. È nato dai Jesus and Mary in Chain, però i Primal Scream secondo me sono grandissimi, no? E Loveless dei My Bloody Valentine, un altro disco. No, tutti anche dischi, tra l'altro, non recenti. No, assolutamente. Ancora meglio, insomma. Decisamente. Leonardo, che è l'ultimo. Allora, visto che Andrea mi ha rubato il mio Beatles, direi dei Beatles, sempre White Album, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. E poi qualcosa di più recente che comunque ha influenzato il modo mio di suonare, forse il primo degli Arctic Monkeys. Cosa dici, Marco? Grandissimo album. Vedi. Che comunque sono praticamente tutti singoli. Esatto, tutti singoli, sì. E poi forse... Poi Quadro Finale degli Who. Quadro Finale degli Who, sì. Chi ti ha influenzato? Quello che suonava la batteria? Kid Moon, nel senso che... Chiaramente. Qualcuno dice è una bestia nel senso positivo. No, immenso, anche quanto spaccava. Vabbè, ma anche tutto. Ringo Starr comunque. Sì, per carità, comunque, anche Ringo Starr. Nel suo signor modo, batterista. Suona in una certa maniera, Ringo suona alla Ringo. E poi, No, magari. Magari. Magari. Volendo potremmo farlo diventare un gioco che riparte e uno non viene eliminato quando dice un disco che ha già detto un altro. Che ha già detto un altro, diventa un... Sì. Andiamo avanti fino a venerdì prossimo. Ok, cosa dici, Marco? Facciamo un altro pezzo dal vivo, ce la fate, sì? Okay? Sì, un pezzo del nuovo disco, si chiama Why Won't You Come Back. Benissimo. walk every day. You want to be there once again. Put down that place if you go where I'm staying. That will take you further, you know that. But you said you've got to be there. No, think just for a second you should go. Wake up every night, you never know. Waited for a day, cause you spent all the day on taking time to run it out, cause it was up to you. Why would you come back? Why would you come back? Why would you come back? Why would you come if you walk every day just to be closer once again? No place to walk down if you go still I'm standing. That will take you further from you, but no. Think just for a second you should go. Wake up every night, you never know. Waiting for a day, cause you spent all the day. I'll take your time to run it out, cause it was up to you. Why would you come back? Why would you come back? Why would you come back? Why would you come? Qualcuno, Marco, ha scomodato Burt Bacharach per questo pezzo e io penso non abbia scomodato proprio così. Ha un certo senso, un certo collegamento ideale, tutto quello che volete, però cosa sì, dite? Sì, diciamo, andando ancora più dentro, siamo arrivati anche a Burt Bacharach. Beh, è un grandissimo, ha scritto delle cose meravigliose. Non è una cosa, magari si sente l'influenza della band, però è uno dei nostri idoli. Soprattutto un pezzo che si chiama This Guy's in Love With You, che è una delle cose più belle che ho avuto nella vita. Decisamente, no, questo è un pezzo molto, molto interessante e anche molto accattivante, possiamo dire questo. Non so dal vivo come lo fate, questa è una dimensione assolutamente acustica. No, non lo facciamo, per ora acustico e poi in attesa di riuscire a logisticamente a portare i fiati anche live. E i fiati andrebbero benissimo con questo pezzo, sarebbero ideali, sì. Secondo me, una cosa ottimale. Bene, mi fa piacere un'ulteriore faccia vostra, chiaramente. Come abbiamo detto all'inizio, il vostro ultimo album ha determinate facce, determinati riscontri, determinate strade da percorrere, da seguire. Esatto, poi nel senso in Italia forse quello che facciamo noi è molto riconducibile a non troppe cose, magari solo a una decade che può essere quella da quando nel 2005 ci fu quell'ondata di band inglesi, forse l'ultima ondata di tante band, uscirono Maximum Park, Kaiser Chiefs, Kasabian, Arctic Monkeys. E forse diciamo che è una cosa che ti può stare un po' stretta come band, che magari può avere una concezione più europea, quindi con l'intenzione di andare a giro e tutto, quindi è giusto che abbia un percorso che ti porti anche ad altro, insomma, no? Anche perché non puoi fare quello tutta la vita, magari ci veniva più spontaneo quando avevamo 20 anni, adesso apri un pochino la mente verso territori differenti di scrittura, di arrangiamenti, di tutto, ovviamente. Continuando ad ascoltare costantemente musica è un processo naturale, può essere lento o più veloce, possono rimanerti alcune cose, però in generale vai avanti, ecco. E voi avete suonato in Germania, in Inghilterra, che sensazione si prova a suonare una band italiana, anche se canta in inglese, in Germania, in Inghilterra, in paesi non italiani? Chiaramente. In Inghilterra alla fine eravamo un pochino spaventati, ecco, perché pensavi di... cioè, magari pensandola da italiano, da band italiana, la situazione magari si può vivere in Italia verso la musica, che è piuttosto una forma di intrattenimento più che culturale appieno, ecco, pensi che là... alla band italiana che va a suonare lì, magari da dove vengono questi, perché vengono a suonare la solita musica. Invece è stato tutto l'opposto, ecco. Abbiamo fatto la primissima data a Manchester in un club in centro che si chiama Moho, che è il club del cantante degli Embrace, sono una band anni 90, in cui eravamo headliner della serata, quindi è stato il momento in cui c'è stata più gente, eravamo noi e siamo stati accolti benissimo. In particolare al nord, essendo stato tante volte in Inghilterra, la situazione a livello proprio sociale è molto più calorosa, ecco, piuttosto che Londra magari può essere un po' più modaiola, un po' più fighetta. Il nord è proprio molto più predisposto alla musica in generale, senza pregiudizi e tutto. Poi, essendo un paese, l'Inghilterra, in cui le persone vanno ai concerti come noi andiamo, che ne so, al cinema o allo stadio, no, lo stadio no, forse vanno meglio anche allo stadio. È stato abbastanza semplice, ecco, molto più di quello che magari uno, non essendoci mai stato, può pensare che può essere sotto luce. No, lì la gente va anche solo a divertirsi ai concerti, quindi hai un'idea molto positiva molto dell'Inghilterra dal punto di vista musicale. Qualsiasi band italiana con un minimo di, diciamo, di concezione europea e non magari improntata, che ne so, ovvio che magari una band più cantautoriale in italiano a Manchester non avrebbe molto senso, però diciamo che è un'esperienza che chiunque dovrebbe fare, anche solo per rendersi conto della naturalezza con cui si vivono certe cose lì in Inghilterra. Cosa ne pensi, Marco? Sì, è un approccio diverso, anche perché io sono convinto che tanti gruppi italiani, se uno non sa che sono italiani, c'è proprio una questione di prevenzione mentale, no? C'è tanta gente che dice quello è un gruppo italiano, ma anche in Italia quello chissà che musica farà. Invece in realtà, io ho sempre detto, ma in questi ormai sono tanti anni che in Italia ci sono delle band veramente brave, tipo la vostra, ma anche altre, ovviamente nel panorama musicale italiano non vengono considerate, perché purtroppo l'Italia è caduta nella spirale di altre nazioni dove la musica che si ascolta è spazzatura, secondo me, a parte la nostra radio. No, però io noto che effettivamente c'è un po' di, anche in Italia c'è questo tipo di prevenzione verso il gruppo italiano, perché si pensa che il gruppo italiano faccia quella musichetta. Io, per dire, a me non piace neanche Vasco Rossi, neanche Ligabue, per dire, come Italia non mi riconosco in quella musica là, mi riconosco molto in più in musica come questa, perché avendo ascoltato molta musica inglese è ovvio che apprezzo molto di più questa. Quindi poi abbiamo visto che dagli anni fine dal 90 in poi ormai non ci sono più confini, una volta era Inghilterra America, adesso ci sono band norvegesi, svedesi che suonano un rock meraviglioso, e allora perché non può farlo anche l'Italia? Esatto, quello che volevo dire io è che comunque sia la scena europea è un po' girata la ruota, certo. Quindi magari non so se entro 2 anni, 3 o 4, però potrebbe avere la sua fetta anche l'Italia, come ha avuto la Svezia con alcuni gruppi garage o alcune cose recenti, ecco. Magari non so com'era negli anni 90 la situazione delle piccole band, ovviamente non avendola vissuta, avevo 10 anni, però adesso mi sembra ci siano tante band a giro, tante cose interessanti, quindi diciamo che potrebbe avere la sua fetta di importanza a livello proprio europeo. Magari è più facile all'estero che non in Italia, perché magari non so, adesso io non so se voi avete notato, se avete avuto più facilità all'estero che non in Italia a proporvi, oppure suonare in Italia o all'estero avete avuto lo stesso riscontro. Fondamentalmente, guarda, secondo me il discorso fondamentale, cioè secondo me, è proprio una mia opinione questa, il fatto di scindere un attimino due cose, il fatto di andare a proporsi all'estero con una struttura di base in Italia, comunque essendosi fatti le ossa, comunque con qualcuno che ti dà una mano a organizzare, ti finanzia, eccetera, eccetera, è una cosa sicuramente da fare, e sicuramente è una cosa anche positiva poi a livello di diffusione della musica che stai facendo. Comunque all'estero, per quella che è stata la nostra esperienza, anche in Germania la gente è veramente molto recettiva, molto molto recettiva, quindi vale sicuramente la pena, e forse è anche un po' più facile in alcuni contesti riuscire ad arrivare alle orecchie degli ascoltatori. Questo però magari, ecco, se uno credere di partire all'avventura senza nessun tipo di base lì, pensando che necessariamente sia meglio dell'Italia, ecco, non lo so, perché comunque anche in Inghilterra c'è da contare il fatto che, per dire, anche solo il cachet con cui ti pagano è un terzo di quello italiano a parità di band, diciamo, nel senso, anche un gruppo come sono i nostri amici, sono i Twisted Wheel, hanno supportato gli Oasis, non è che siano che girino a cachet da milionari in Inghilterra, nel senso, quindi uno si deve anche confrontare con queste realtà, che da un lato è vero, gente più ricettiva, però c'è anche una concorrenza molto più, tra virgolette, spietata, no? Un attimino, ma credo che il discorso anche dei guadagni dipende molto anche dalle vendite, perché una volta si vendevano più dischi e quindi probabilmente quella poteva essere un'entrata per la band. Adesso dischi non se ne vendono più, quindi credo che live e i concerti, quelli siano una delle fonti, la fonte più importante di entrata per un gruppo, giusto? Esatto, credo. Sì, senza però, dubbio, tipo, cioè, in Italia si vede quello che abbiamo visto, diciamo anche in Germania abbiamo visto quello che non si vede in Inghilterra, che in Italia quasi sempre un gruppo che inizia a girare, che ha una, anche senza agenzia, però che è bravo a promuoversi, riesce a trovare una data con dei cachet che in Inghilterra non li vedi proprio, e hai cachet, cascina e la sistemazione. Noi siamo stati in Inghilterra, la birra, che suoni, fai il soundcheck mentre sei sul palco, suoni e vai via. Poi magari col tempo riesci a costruire una struttura laggiù che ti supporta, e sicuramente economicamente puntano di più sulle band. Il discorso in Italia è che le persone fondamentalmente non ascoltano la musica, secondo me. Quindi non ascoltando la musica si arriva ad avere poche persone ai concerti, anche se si promuove degli ottimi gruppi, e anche se abbiamo degli ottimi gruppi in casa. Quindi il gestore del locale che non è interessato a fare una programmazione mirata si trova ad avere un locale con del budget e a finire poi sulle cover band, perché non riesce a portare persone. Ma il motivo perché la gente non ascolta musica qual è? Perché il mercato, diciamo, indipendente, a differenza dell'Europa, ha un blocco nel mezzo della distribuzione, della comunicazione tra la gente che può, perché comunque sia radio indipendenti come la vostra, sì, riviste, diciamo anche canali televisivi che aprivano spazio a dei gruppi, ce ne sono. Solamente non riesci mai a prendere l'intera torta, prendi solamente una piccola fetta di persone, che secondo me sono quelle che adesso il mercato italiano può fare. Io, nel senso, abbiamo fatto tanti concerti, ne abbiamo a fare tantissimi altri ancora, però penso che se una persona, ci sono delle situazioni che poi sono casuali a volte in tanti tipi di città, anche se non sono collegate, in cui live funziona, in cui le persone sono ricettive, o magari c'è stata un'educazione dietro da parte della radio, da parte del locale, che ha abituato le persone ad avere una programmazione sempre interessante. E ci sono invece altre situazioni in cui sia il comune non ha finanziato, sia la gente non gli è interessata, sia magari il locale che fa discoteca prende più persone, che è difficile proporre un live, anche se il live di per sé è di qualità. Ho capito, sì, è chiarissimo. Una cosa volevo dirvi, una cosa molto importante, vi saluta Gianluca Merlin, che è di Radio RCS, una radio veronese, e vi apprezza molto e vi cerca di ospitarvi il più presto possibile. Dovete andare da lui a suonare. Grazie, grazie. È molto contento della vostra musica, vi apprezza molto. Grazie mille. Bene. Cosa facciamo? Facciamo un altro pezzo dal vivo. Abbiamo fatto tre pezzi consecutivi dal vivo. Facciamo un pezzo da disco, almeno sentiamo un momento un pezzo da disco. Beh, seguiamo sempre la scaletta. Chiaramente sì. Allora, qua vedo scritto, sì, Sundown for 57, il pezzo che ascoltiamo adesso dal loro album. Perfetto. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Watching TV with nothing to resolve and nothing to see. sometimes. Abbiamo sentito questo pezzo, lo vogliamo ripetere, il titolo? Si chiama Sundown for 57. Non era proprio duro, francamente, questo pezzo? No, questo qui è il pezzo, diciamo, un po' più dilatato del disco. Infatti l'abbiamo lasciato per ultimo perché magari è proprio la chiusura ideale. Ecco. Infatti il pezzo che ho scelto io. Diciamo, c'è un po' di cose un po' più particolari. Per esempio lui non suona la batteria nel pezzo e c'è una drum machine analogica che avevamo in studio che ci piaceva. E cos'è la drum? Cioè, io lo so, però gli ascoltatori che lo sanno, che cos'è la drum machine analogica? È, diciamo, un campionatore di suoni. So che tu lo sai. No, no, ma è giusto che chi ascolta. Esattamente. È corretto. Sì, dimmi. Molto utilizzamente non è una batteria, ma è uno strumento che ne riproduce il suono con delle sonorità anche differenti, che abbiamo deciso di utilizzare per questo pezzo, essendo una cosa un po' più particolare rispetto alle altre cose del disco. Certo. Non so, forse Marco l'ha già chiesto in altre volte, però possiamo ripetere questa domanda. Perché spesso e volentieri si ritorna ai suoni vintage? Cosa c'hanno i suoni vintage? Hanno più anima rispetto ai suoni di adesso? Cioè, i suoni un po' giocati con i sintetizzatori, un po' giocati con... giocattolo. Esattamente. Diciamo che adesso, secondo me, in mia opinione, il concetto di vintage è stato un po'... un po' amplificato. Un po' male, vero Marco, se dici? È male, io sono convinto che... sono convinto che certa gente non sa neanche cosa vuol dire vintage. Lo usa come termine, però sì, se gli chiedi cosa vuol dire non lo sa. È una via di fuga, perché che bel suono vintage, ma no, non è vero. Sì, come una moda praticamente. Non è proprio così, però, effettivo. Dimmi. Anche quello va in linea con le cose che ti hanno un po' interessato, anche a livello di sonorità o... Quindi, non lo so, ci sono alcune cose della scena un po' più baggy, che era quella cosa di cui parlavamo prima, che si sviluppò a Manchester a fine anni 80, che viravano più sull'elettronica, però comunque essendo suonata da gruppi rock, ecco, una cosa che ci aveva anche a noi incuriosito e volevamo sviluppare un'idea in quella direzione là, cosa abbiamo fatto con l'ultimo pezzo. Ecco. Mm-hmm. Certo, chiaramente. Ok, 23, 34, 35, non è ancora finito, quindi visto che non è ancora finito, voi non... siete ancora in forma, siete giovani, forti, quindi ci andiamo ancora, chiaramente. Questo è lo spirito di Rock Wave, con Marco Borgato a conduzione e Maurizio Cazzavara che dà una mano stasera. Sì, il prossimo pezzo si chiama Here in the Sand e sarà probabilmente il secondo singolo dopo Nova, che avevamo già detto prima. Esattamente. It's a long ride from where the people say you love from the first time when they seen you, and look back that night was just that fine, and the morning dreamers, walking dreamers, fade themselves all blood. We cannot complain, cause we're all the same, ill just in time. I can see a better place, and now it's not where I've seen your face. Could it be the end here in the sun? See me through that light, I can't look back. Make a thing that changes how to make my mind as yours. Whenever you listen to yourself, then you say it. I can see a better place, and now it's not where I've seen your face. Could it be the end here in the sand? I can see a better place, and now it's not where I've seen your face. Could it be the end here in the sand? See me through that light, I can't look. See me through that light, I can't look. See me through that line. I can't look, see me through that line. I can't look back. Better place, no, it's not where I've seen your face. Could it be the end here in the sun? I can see a better place, but no, it's not where I've seen your face. Could it be the end here in the sun? E una cosa volevo chiedervi, adesso ho letto sulla biografia vostra, a proposito di show acustici in radio, cioè state a una radio di Manchester, com'è stato quel concerto memorabile a una radio di Manchester? Bello, sì, abbiamo fatto un'intervista a un paio di pezzi acustici lì quando eravamo in tour là in Inghilterra un paio d'anni fa. Sì, nel 2009 circa. Esatto, fu la seconda apparizione in quel tour, perché praticamente dopo il primo concerto che suonammo al Moho, a vederci c'era Andy Rourke, il bassista degli Smiths, che subito dopo il concerto ci intervistò con la sua assistente che aveva lì con lui per la sua radio, per la radio dove lavorava, si chiama All FM, scusate se posso. No, cioè, sì, se puoi. Esattamente. Quelli di All FM stanno offesissimi. Ma si dice prima. Andy Rourke, adesso non mi ricordo, non vorrei dire una stupidata, ma hanno fatto il gruppo il Peter Rourke The New Order. Ho fatto un gruppo nuovo l'anno scorso che ha messo insieme non so se è Andy Rourke degli Smith o forse sì, c'era Manny Roses, e anche c'era un altro poi dei non mi ricordo più se degli Inspiral Carpet o dei Charlatans, non so, che erano 4 o 5 bassisti. Ha messo su un gruppo, ma sarà neanche un anno. C'era Manny degli Stone Roses, esatto, Rourke, c'era Rourke, c'era anche una Rourke, sì, non so se Inspiral Carpet o Charlatan, uno di queste due band, adesso mi sfugge. Infatti Andy Rourke, io avevo perso le tracce da un bel po' di tempo. Era in gran forma quella sera lì, era rifichettato alla grande, stava per partire per l'America, in cui credo che avesse da fare delle cose promozionali per qualcosa di relativo agli Smiths e fu interessante, sì, come cosa, che perché la prima sera che arrivi a Manchester a suonare arrivi pensando che ti ammazzano e ti ritrovi il bassista degli Smiths a vederti, che ha fatto tantissimi complimenti a Leonardino, in cui gli ha detto: ah, si sente che te ti ascolti tanto Northern Soul, da come suoni. Leonardino manca poco piange. Un'altra cosa vi devo chiedere è questa: il discorso degli Oasis, del manager degli Oasis, come è andato a finire il discorso degli Oasis? Allora, praticamente... Mi devi raccontare com'è questo episodio, è molto interessante, significativo. Allora, successe questo: noi venimmo scelti da loro per aprire il concerto che doveva essere l'ultimo concerto della loro tournée nel 2009, ovvero l'Independent Day a Milano. Esatto. Gasatissimi tutti dell'evento, due giorni prima del concerto si prendono a pedate a Parigi e si sciolgono quella sera. Noi eravamo a provare una scaletta, siccome siamo molto amici dei Twisted Wheel che erano in tour con loro, sì, ci mandano un messaggio: ragazzi, sta succedendo il finimondo, è facile che loro non vengano a Milano. Noi, cosa dite? Sì, insomma, sì. Cioè, l'abbiamo presa abbastanza in filosofia, e poi invece era vero. Non sono venuti, infatti. Però avete fatto supporto alla band parallela o no? Sì, esatto, il 16 marzo scorso abbiamo aperto IBDA a Milano. Infatti quando li abbiamo incontrati nel backstage, la band è composta praticamente da tutti gli Oasis senza Noel Gallagher, certo. Gli abbiamo detto: ci avete dato un pacco due anni fa che metà bastava. E i più educati ci hanno chiesto scusa, Liam ha detto: non mi ci fare pensare se no mi incazzo. Abbiamo virato la discussione. Beh, sì, è andata anche bene. Sì, no, è andata bene. Ora, tra l'altro... ho capito, non ho fatto... Non ho tolto il microfono. Il beep ce l'avete. Non ho tolto il microfono. Tra l'altro proprio loro hanno richiesto al promoter italiano di avere gli Hacienda come spalla anche al prossimo concerto che faranno l'8 giugno a Firenze, per cui sarà per noi una cosa epocale, cioè aprire la nostra città ai BDI è una cosa incredibile. Siete pronti mentalmente a questo? Sì, assolutamente, a meno che non succeda nulla due giorni prima. Beh, non c'è mica il tuo fratello, quindi... No, non lo so, però... sa mai spunti fuori. Sa mai. Purtroppo è successo quando nel 2009 hanno fatto una baruffa incredibile e si sono sciolti proprio. Peccato però. Cosa sì, dici? Forse era anche il momento, non lo so. Io sono molto patriottico verso gli Oasis, però effettivamente parlando da obiettivo, forse era l'ora. Era insostenibile, no? Ma penso che fra di loro più che altro doveva essere una cosa pazzesca, cioè uno che scriveva i pezzi e voleva fare tutto lui perché era quello che scriveva, l'altro ci ha messo la faccia per 15 anni cantando tutti i pezzi e sono diventati famosi perché ci cantava lui, quindi è una cosa anche un po' pesante, mi sa, alla lunga. Però peccato. Forse le loro migliori cose ovviamente le avevano già fatte, quindi nel senso, poi io... Loro li ho visti tipo 25 volte dal vivo, quindi no, non me li sono persi, ecco. Li conosci a memoria, assolutamente, in ogni momento dei loro dischi. Ma a questo punto vi faccio una domanda, e cosa pensate allora di Blur? Visto che io li adoro. Quando sono nati gli Oasis c'era questo dualismo tra Damon Albarn e... della stampa, alla fine sono due cose completamente diverse, poi a me piacciono entrambi molto. Sì, diciamo che i Blur, secondo gli Oasis, rispetto agli Oasis, hanno... ha avuto un cambiamento, hanno cambiato di più rispetto sì, hanno a... avuto un percorso più perché aperto già, mentalmente io sì. A me, personalmente il più bel disco dei Blur è Modern Life is Rubbish, il secondo, sì. Mi piace da matti, che è stato un gran cambiamento rispetto all'album d'esordio, perché l'album d'esordio era completamente diverso, sì. Quindi poi Albarn secondo me ha avuto l'intelligenza di variare un po', però anche là all'interno del gruppo non è che vadano tanto d'accordo neanche con i Blur, eh. So che si sono con Graham Coxon avuto parecchi disguidi, eh. Sì, che sì, poi sì. A me Graham Coxon è l'anima che mi piace di più dei Blur, perché è quella più rock, sì, secondo me. Secondo me è la veramente la band è Graham Coxon. Infatti ho avuto modo di vederlo in concerto a Firenze alcuni anni fa nel Portone Tour Happiness Magazine, che è il suo disco, sì, comunque più rock, sì, più vicino ai Blur, che diciamo più mainstream, quindi lì di... La prima cosa che ho pensato era, ah, ecco chi erano i Blur, piuttosto a livello di composizione, di produzione, ovviamente poi la voce di Damon Albarn è quella, quindi... Ma è una cosa però ho notato io, magari succederà anche a voi un domani fra 30-40 anni, ci sono stati diversi gruppi che, dove noi abbiamo visto sempre il leader, il cantante come riferimento, poi in realtà... per varie vicissitudini si è scoperto negli anni che la mente non era più, non era il cantante, ma l'esempio più classico è quello di Dave Grohl, che, certo, ha dimostrato come qui in Nirvana, una volta sparito Kurt Cobain, Grohl veramente ha tirato fuori il meglio di se stesso, e l'esempio che mi facevi adesso dei Blur con Graham Coxon, cioè capita tante volte che all'interno di un gruppo noi ci focalizziamo sul leader, sul cantante, poi in realtà invece chi muove i fili dietro, sì, sono io, in realtà, i nuovi figli sono io, bene, sì, mi avete scoperto in diretta. Vabbè. Di base magari ti ho distinto perché quello che ci mette la faccia in primis è il cantante alla fine, no? Quindi... Ma nel caso vostro come siete? Siamo abbastanza mainstream alla fine, poi c'è il batterista che comanda tutto lui. Ah, sì, Leonardo. Sì. Passa tutto a queste mani. Bene. No, non è vero. Non è vero, smettiamo assolutamente. Smettiamo tutto subito. Ok, 23:45, assolutamente in diretta. E abbiamo ancora circa un quarto d'ora, più o meno. Lo gestiamo fra il live e fra il disco. Il live è come nostra consuetudine, è la fase finale del concerto, dell'esibizione. Quindi sentiamo un altro pezzo dall'album. La scaletta cosa abbiamo scelto, Marco? Allora, nella scaletta abbiamo scelto il brano, eccolo qua, Later on Demand. Perfetto, ok. Rock Wave, l'onda del rock. Somebody changes to keep everybody radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, c'è la ricerca, però sentivo i diversi pezzi vostri, c'è sempre una caratteristica più o meno nascosta o meno nascosta, la ricerca di una fase melodica, quella sì. Sì, forse essendo abbastanza incentrati nel dare un senso di musica pop comunque con la band. Sì, certo, musica pop che... tra virgolette, sì. Però la melodia più o meno si tenta da sentire, da sviluppare. Sì, cioè... è forse l'intento della band che porta, cioè nel senso noi a livello proprio come band ci piacerebbe riuscire ad arrivare sia all'ascoltatore patito di musica anni 60, di indie rock, new wave e tutto, come al cassiere del supermercato che sì, magari sente quindi solo ampliare di tutto praticamente. E forse è una cosa che può aiutare sicuramente avendo tanta melodia nei pezzi, poi essendo una cosa che ci viene anche abbastanza spontaneo l'abbiamo comunque tenuto in... Sì, ma non è una fase negativa assolutamente lo sviluppo melodico, la ricerca di uno sviluppo melodico, chiaramente in determinate situazioni, in determinati modi, però esiste, non c'è niente di negativo a mio parere. Sì, infatti anche se con questo disco abbiamo utilizzato strumenti differenti, cose che non avevamo provato prima, comunque sia la concezione dei pezzi è abbastanza pop, ecco, come parlavamo l'altro giorno anche noi analizzando alcune cose del disco. Certamente, certo. Cosa dici Marco? Sì, sì, sono d'accordo, è un po' sì, diciamo le stesse cose, ma è proprio è un approccio pop, perché parlavamo dei gruppi degli ultimi 5-6 anni e l'approccio, io prima ho citato i Fratellis ad esempio, che sì, a me piacciono tantissimo ed è veramente un approccio pop e quindi popolare, quindi sicuramente può piacere anche chi magari non mastica l'indie rock o l'alternativa, quindi è corretta come idea, eh. E, sì, esatto. E soprattutto non si fa qualcosa di scontato, ma è sempre qualcosa esatto, di nuovo e di ricercato. Perché comunque è sempre etichettato pop come musica banale, però no, assolutamente, nel senso, riuscire ad arrivare a chiunque penso sia l'obiettivo più difficile. Quando si parla di pop, a fare qualcosa di qualità, nel senso. Quando si parla di pop, andiamo in America o in Inghilterra, ma secondo me un genio del pop è Rico Kasek con i Cars, che forse voi non li conoscete. Il tuo pallino. Hanno avuto successo in Inghilterra con il singolo del primo album, ma in realtà è la loro musica pop. Erano americani loro, no? Loro sono americani, sì, sì. Sì, sono americani, o meglio, erano perché non sono, si sono sciolti poi, tra l'altro è morto anche Benjamin York qualche anno fa, però loro erano americani e in Inghilterra hanno avuto successo con Just What I Needed, che era un singolo rock, ma l'anima di Kasek è sempre stata un'anima pop. È verissimo questo. Assolutamente. Quindi il pop non è assolutamente una cosa negativa, no. Meglio poi se c'è anche del pop con dell'elettronica ancora meglio. E qualche volta sì, esatto, si individua il pop come una fase negativa, ma non è. Ma magari fa anche pop di, di qualità. Ecco, esatto, non solamente il pop da classifica, no, certo. Cioè anche quello della classifica può essere di qualità chiaramente. Certamente, però, certamente. Parlando di pop di qualità parliamo dei dischi che ascoltiamo, non del nostro, cioè non è una proclamazione. mi diceva il direttore che è ancora qua, che i Cars hanno fatto un disco nuovo, non lo sapevo. Ecco, vedi, vedi. Non c'è più Benjamin Hall che è la cantante, il singolo Drive famoso del, però sì, si sono ma non lo so, non ho paura di ascoltarlo però. Ok, benissimo, sono 23:53 quasi, io proporrei, so se Marco sei d'accordo, adesso abbiamo circa 10 minuti, due pezzi live, ce la fate a farli? Sì, sì. Adesso ne facciamo uno, poi parliamo ancora e poi finiamo con un altro live. Benissimo. Ok, cosa ci fate sentire adesso? Un pezzo si chiama 1 AM, è il pezzo che tutti i nostri fan hanno più sulla suoneria del cellulare. Ah, bene, bene. Un po' più, diciamo, orecchiabile, che ci portiamo dietro, che era del primo EP, Conversationless, sempre. Do you think you really don't? Is this stuff there's or all the sea? A place to find the things we need. Maybe just the day will come in through. We will know with a song. Could I be in trouble? Just to say sometimes I love her. With a song. Could I be in trouble? But it goes many times, in many ways you see your life's glow off. I dirty thing you really don't. Is this stuff that's our all to see? A place to find the things we need. Maybe just a day will come in through. We will know we're the song. Could I be in trouble? Just to say sometimes our lover. We're the song. Could I be in trouble? But it goes many times, many ways. You see your life slow up with all our friends singing fields and dreams till then they go. Jenny, take my hand, don't be sleepy over there. All alone I cross my head, for all I am not just there. With a song, could I be in trouble? Just to say, sometimes our lover. With a song, could I be in trouble? With a song, could I be in trouble? But it goes many times, many ways. You see your life slow up with all a friend singing fields and dreams and feels till then they go live their hands away. Allora, praticamente questo è il pezzo che i vostri fans amano di più. Sì, è un pezzo che abbiamo scritto nel 2007, anche se è uscito la prima volta nel 2009 con col primo EP Black and Sì, te lo sta prendendo la chitarra, sì. Sì, parlavo sempre che stavo per rompere una chitarra. Dimmi. E è il pezzo che è rimasto di più alle persone che ci hanno ascoltato, diciamo, da quell'epoca lì più o meno. E quindi è un pezzo che facciamo quasi sempre dal vivo, con cui di solito anche se partiamo ai concerti. Quindi... Partite con questo praticamente, sì. Aprite i concerti con questo qua. So, facciamo il solito discorso di... cioè, titolo del disco... L'album si chiama Picking Pennies Off the Floor. L'etichetta? Black Candy Records. La produzione? È chi? Lorenzo Buzzini. Aspettate un attimo. Dove si può il vostro sito? Il nostro nuovissimo sito internet è www.theaciendaband.it. Hacienda con l'H davanti. Hacienda, esatto. Si scrive praticamente. Come si scrive? Hacienda. HACIENDA. Perfetto. E poi i concerti più vicini che avete? Domani sera suoneremo a Conegliano all'appartamento Hoffman con i 40 Wings. E poi suoneremo a Fabrica Europa l'11 maggio a Firenze, prima di partire per il tour inglese, in cui faremo 5-6 date più o meno a fine maggio. Le città inglesi te le ricordi? Adesso confermateci, sono intanto Londra, il 27 maggio faremo il Buffalo Bar, che è un piccolo club a Islington. E il 28 maggio suoneremo a Manchester a un festival sulla spiaggia. Bene. E poi? E poi? E poi altre. E poi le altre saranno annunciate, sì, sono una sorpresa. Benissimo, benissimo. Ritroveremo il vostro sito, chiaramente. Sì, aggiornatissimo da Andrea, che vive solo per quello. Il disco si può comprare in qualsiasi negozio di dischi oppure dal vostro sito? Il disco si può comprare in qualsiasi negozio di dischi, anche il nostro negozio, perché io, Alessandro e Francesco Avete negozio un negozio di dischi. Ho avuto modo di vedere il sito prima, perché me l'ha detto, e sono andato a vederlo. Aperto insieme all'etichetta, infatti si chiama Black Candy Store. E dal sito del negozio o dal sito dell'etichetta blackandy.it potrete acquistare l'album online, anche l'EP, anche l'EP, tutto il catalogo dell'etichetta e altro anche. Bene, bene, positivo, molto positivo. Per un negozio di dischi adesso è coraggioso e positivo, possiamo dire questo, Marco. No, beh, sicuramente sì, anche perché non ce ne sono tanti. No, che, assolutamente. Che vendono un certo tipo di musica. Poi di qualità, Ci abbiamo messo tutti i nostri sogni, possiamo dire. Vabbè, ma credo che sia. Tutti i nostri sogni in quel negozio, che è situato nella periferia di Firenze, non proprio in centro, a 10 minuti fuori. E come catalogo, avendo anche tante cose usate o selezionato, sta avendo abbastanza presa anche sui ragazzini, su... Ma ora è un annetto e mezzo abbiamo aperto, quindi insomma iniziamo ad avere una buona clientela. Se ancora in piedi vuol dire che No, il problema di acquistare via internet, che il gusto di andare là, però una volta si faceva con i dischi, ma scartabellare sui CD è imparabile, è un'altra cosa, però vabbè, insomma. È come il vinile di MP3, poi è infinita la conversazione. Sì, no, beh, no, ma quello sì, però proprio il fatto di scegliere il CD è comodo perché vai su internet, lo vedi, lo scegli, però il poter scartabellare è anche il fatto di poter dire, si può fare lo stesso, ma chiedere al negoziante, mi fai ascoltare, io ho tanti CD, ho tanti dischi, li ho comprati, non conoscevo il gruppo, mi sono fatto ascoltare un paio di pezzi e l'ho comprato. Esatto, cosa che facciamo noi costantemente, non abbiamo nessun tipo di problema proprio a far ascoltare qualsiasi tipo di disco, è una cosa che ti permette anche di dare un senso proprio al rapporto fra chi li vende i dischi e chi li compra, che non è quello, mi dai un disco dei Beatles, sì, cerca la B se ci sono, magari. c'è chi faceva così, tutto te lo ricordi comunque. Sì, me lo ricordo. Ok Marco, abbiamo finito praticamente, peccato perché però quasi un'ora e mezza è andata via senza nessun problema, sì. Quindi con gli Hacienda stasera, grazie a voi che siete venuti da Firenze. Grazie mille a voi di tutto. È stata veramente una cosa molto bella, molto positiva. È stato un gran piacere stare. E mi sa che la prossima volta li vedremo in qualche televisione, in qualche concerto importante pure. Sì, spero di sì. Io penso di sì. Sì. Ok, con cosa concludiamo? Chiudiamo con una cover che è un pezzo degli Style Council, si chiama My Ever Changing Moods. Quindi poi uguale esiste sempre, ci vuole sempre. L'ho citato troppe volte. Beh, a parte che secondo me gli Arctic Monkeys devono molto ai Jam. Mio parere personale, comunque vabbè. E niente, siamo arrivati al termine, quindi... Grazie. E grazie a voi. Grazie a voi. Non cambiate canale perché suona un altro pezzo live. Maurizio, mi darai dopo i soldi visto che ti ho permesso di trasmettere questa sera. Ci sarà qualche altro venerdì per te. Me l'ha comunicato il direttore. So. Me l'ha comunicato. Vabbè, il nostro direttore te l'ha comunicato. Se sono venerdì così, potrebbero fare anche tutti i venerdì, mi va benissimo. Cioè. Certo, per me è molto più comodo. Lavoro molto meno. Beh, è vero. Però ti diverti di più. Mi diverto di più sicuramente. Ok, buonanotte a tutti. Buonanotte e buon ascolto ancora. Daylight turns to moonlight, and I'm at my best, praising the way that it all works. I'm gazing upon the rest, yeah. Cool before the warm, calm after the storm. Now the cool before the warm, calm after the storm. I wish to stay forever, letting this be my food. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing mood, yeah. Bitter turns to sugar, some color passes too, but the day things turn sweet for me won't be too soon. Oh, the hush before the silence, the winds after the blast. Hush before the silence, wind after the blast. I wish we moved together, this time the boss is sued. Oh, but we caught up in the wilderness and I have a changing mood, yeah. Tears have turned to children who have had their time to commit the sins that pay for through another evil mind. The love after the hate, love will lead too late. Love after the hate, love will lead too late. I wish to wake up one day, everyone feel moved. Oh, but we caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. Cool before the warm and the calm after the storm. Hush before the silence, the winds after the blast. Love after the hate, the love we live to lead. Blu Radio Veneto.